Rieccoci qua, buon pomeriggio, come dicono le persone serie su Radio Wombat, la fuga del gatto, domenica 28 ottobre, fine mese, siamo quasi alla fine di questo ottobre e oggi effettivamente sarà per l'ora scura, sarà che effettivamente il meteo ha deciso di comportarsi da autunno, dopo un bel po' che invece eravamo ancora in primavera. Ecco, effettivamente oggi è proprio una giornata di fine ottobre, di quelle che, come tutti i crismi e tutte le cose come andate, ecco, sì, ci sono le foglie in terra, la pioggia, eccetera, eccetera. E quindi, perché, insomma, io non volevo essere da meno, ho deciso di dedicare la puntata di oggi della fuga del gatto, anche perché sono da sola e quindi sarà appunto un po' di malinconia autunnale, ma insomma io ho deciso di dedicare questa puntata di oggi a Rachmaninoff. D'altra parte non ne avevamo ancora parlato alla fuga del gatto, non avevamo ancora incontrato questo personaggio e un po' glielo dovevamo. Personaggio un po' così. Lo vedremo sui generis, ma come d'altra parte gran parte dei personaggi che incontriamo alla Fuga del Gatto, quei burloni della musica classica. E Rachmaninoff, russo, come se ne evince dal nome, Sergei Vasilievich, giusto per dirlo per intero, Rachmaninoff, russo naturalizzato statunitense. E già qui, beh, direi che già ci sono delle cose strane, insomma, cioè, già è un po' una bizzarria, ma poi insomma ne parleremo e vedremo. D'altronde le vicende di Rachmaninoff in realtà sono abbastanza note e scontate, insomma, non è che devo venire io a raccontarvi l'ovvio, però insomma, virtuoso pianista Rachmaninoff sicuramente, che nasce come pianista, inizia a studiare il pianoforte molto giovane. E famiglia nobile la sua, che però poi cade in disgrazia molto presto. Il padre si ricopre lui e se stesso e tutta la famiglia di debiti, e quindi ciò rischia anche di mettere in crisi l'educazione musicale di Rachmaninoff. Poi alla fine in realtà il nostro ce la fa e insomma viene comunque, si riesce a farlo continuare gli studi e sì, studia come pianista fondamentalmente, poi come direttore e anche questo insomma di fatto fu un ruolo molto importante per Rachmaninoff. Ma ciò che lui ciò a cui teneva forse di più, o comunque insomma ci teneva assai, era comporre la composizione. E Rachmaninoff però non ci riusciva, almeno all'inizio, da giovane, si parla comunque di adolescenti, perché insomma si iniziava molto molto presto a quell'epoca, e Rachmaninoff pare che non fosse giudicato adatto alla composizione, non riusciva a trovare il modo, insomma. E tant'è che la prima composizione che portò in pubblico fu giudicata un disastro totale, e proprio per questo Rachmaninoff cadde in una profonda tristezza, che disse: ecco, allora proprio non c'è versi, allora tutto è contro di me, non, niente, non posso fare quel che mi piace. E tutti gli amici iniziarono a cercare di aiutarlo, e dai, ma che dici, ma dai, rifaccela, dai, riprovaci e tutto quanto. Addirittura anche Tolstoj, beh, addirittura era una sua vecchia conoscenza, eppure lui ci si mise a cercare di fargli tornare un po' il sorriso, ecco. Ma nessuno ci riuscì. A un certo punto pare che ciò che fu decisivo fu il ricorso da parte di Rachmaninoff alle cure di Nicolai Dahl, uno specialista in ipnoterapia, anche se poi in realtà non si sa bene cosa si dissero durante queste sedute, e in tanti dicono che più che l'ipnosi in realtà discutessero di squisis, cioè passassero i loro pomeriggi a disquisire di filosofia, arte e cultura, insomma. E quindi, beh, non è che il che faccia schifo, forse insomma sarà come sarà, questo di fatto gli servì, almeno pare, un bel po'. Anche qui poi di recente un nipote del compositore Alexander, tale Alexander, ha detto che più che la cura ipnotica, in realtà ad aiutare il maestro in quei mesi sarebbero stati gli incontri clandestini con una misteriosa fanciulla muta, musa segreta un po' di Rachmaninoff e poi in segreto amata per tutto il resto della sua vita. Ma queste, insomma, sono un po' illazioni, non lo sappiamo, non lo sa l'internet, figuriamoci se lo so io. Ecco, gli anni passano, Rachmaninoff si riprende da questo momento di scoramento, poi in realtà alti e bassi si susseguirono, ebbe altri momenti di tristezza, ma insomma questo che fu un po' la sua crisi forse più profonda, a un certo punto passò, o perlomeno riuscì Rachmaninoff a venirne a capo e a uscirne, e le composizioni che fece dopo, subito dopo, riscossero un grandissimo successo, come poi vedremo. Ma nel frattempo cosa succede? Succede che quando, insomma, passano gli anni, appunto, Rachmaninoff nel frattempo inizia già a avere una carriera interessante, sicuramente molto applaudito, conosciuto e amato. Beh, arriva la rivoluzione d'ottobre. Rivoluzione d'ottobre e Rachmaninoff si dà. Scappa, ma ora io qui non ho abbastanza competenze per entrare nel vivo, ma l'idea che mi sono un po' fatta, magari mi sbaglierò, e qualcuno ci scriverà alla casella di posta del Wombat, che è posta wombat@insiberia.net, per smentirmi, e io sarò contenta. Ma insomma, l'idea che mi sono fatta io è che non sia scappato tanto per convinzioni politiche, ma fra l'altro neanche tanto per una posizione sociale, cioè non è che al tempo Rachmaninoff fosse particolarmente ricco, certo non era un poveraccio, però non era neanche un nobile, cioè non, io almeno non mi sono fatta l'idea del tipico nobile scappato negli Stati Uniti o in tanti altri paesi, in fuga, appunto, messo in fuga dalla rivoluzione d'ottobre. L'idea mia era che Rachmaninoff fondamentalmente fosse un pigro, cosa che insomma viene testimoniata soprattutto nella sua gioventù, perché Rachmaninoff si diceva che proprio non c'aveva voglia di studiare, che per metterlo, catenarlo alla sedia e dargli un metodo, i suoi insegnanti ci misero un bel po'. E boh, insomma, io mi sono fatta un po' un'idea che la rivoluzione d'ottobre, con tutto il casino che si portava dietro e tutto quello che implicava, insomma, sia a livello di scombussolamento del mondo, della quotidianità che Rachmaninoff era abituato a vivere, sia anche di, insomma, scelte che devi fare, posizione che devi prendere. Insomma, Rachmaninoff non aveva assolutamente voglia di schierarsi, non aveva nessuna voglia di muovere un dito, fondamentalmente, e quindi preferì emigrare, andarsene in giro. D'altronde aveva già iniziato ad andarsene in giro per l'Europa già tempo prima della rivoluzione d'ottobre, insomma, e era tornato in Russia fondamentalmente per nostalgia, perché amava moltissimo il suo paese, ma insomma poi quando alla fine la situazione era troppo complessa, lui se ne andò. E arrivò negli Stati Uniti e, tra l'altro, altra cosa che, altro episodio buffo che tende a farmi avvalorare questa tesi è che quando arrivò negli Stati Uniti pare che un giornalista gli chiese come mai il maestro Rachmaninoff si vestisse così male. E gli rispose: a cosa serve? Tanto non mi conosce nessuno. Poi passarono gli anni, Rachmaninoff divenne famoso anche negli Stati Uniti, sempre più benestante, e allora si ritrovò a un certo punto faccia a faccia con lo stesso giornalista di qualche anno prima, e il giornalista gli ripropose la stessa domanda, alla quale questa volta il maestro rispose: a cosa serve? Tanto ormai mi conoscono tutti. Ecco, secondo me questo un po' inquadra il personaggio. E per cui non me la sentirei di farne proprio un nemico del popolo infervorato, ecco, cioè secondo me era fondamentalmente un pigro e forse per quello un po' mi stava simpatico, anche se certo, insomma, un po' la sua se la poteva pure dire in quegli anni, ma vabbè. Veniamo un po' alla musica perché i brani da farvi ascoltare oggi sono quattro. Di cui due un po' più lunghetti e due invece abbastanza brevi, ma insomma un po' di musica c'è e come sempre, e quindi insomma basta con le chiacchiere, e anche perché insomma sto un po' divagando, ma insomma andrei nel vivo, entrerei nel vivo e vi farei ascoltare il primo brano che è forse uno dei brani più famosi, più celebri, soprattutto al tempo, al momento in cui Rachmaninoff era ancora vivo, probabilmente una delle composizioni più celebri, nonostante fosse scritta in età veramente, veramente giovanile, perché Rachmaninoff aveva 19 anni quando la scrisse. Sto parlando del preludio in Do diesis minore, opera 3, numero 2. Famosa a tal punto che gli venne chiesta in continuazione, cioè oltre al successo sul momento, poi tutte le volte che Rachmaninoff si esibiva, il pubblico richiedeva a gran voce che venisse eseguita anche questa composizione, che Rachmaninoff praticamente sempre negava perché si era un po' rotto i coglioni, diciamocelo, basta, basta, e che palle, un po' come non lo so, sai, le grandi rockstar che ti chiedono poi sempre lo stesso brano e ti dice vabbè, però basta, è che mi chiedete sempre Alba Chiara, eh? Vero? Che bel paragone. Allora, dicevamo, una delle prime composizioni del 19enne. E proprio si era appena diplomato al Conservatorio di Mosca nel 1892 e scrisse questo brano che venne eseguito per la prima volta proprio dall'autore, perché come abbiamo detto prima, Rachmaninoff prima di tutto era un grandissimo esecutore, era un grandissimo pianista, quindi lo esegue per la prima volta nel settembre proprio dello stesso anno, del 1892, al Festival Moscow Electrical Exhibition, e insieme a una raccolta di altri pezzi che furono chiamati Morceaux des Fantaisies. E alla prima di questa esibizione ci fu un tripudio, insomma, andò benissimo. Una recensione del concerto si soffermò proprio sul preludio, che era questo preludio che aveva scritto, e disse che aveva acceso l'entusiasmo. Insomma, da quel momento Rachmaninoff vide le porte del successo schiudersi e, insomma, diventò quello che si dice una personcina famosa. Questo è, mi sembra giusto farvelo ascoltare, il preludio, quindi, in Do diesis minore, opera 3, numero 2. Dopo questo primo preludio che ci siamo appena ascoltati, ve ne farei ascoltare subito a bomba un altro che invece è di qualche anno dopo, 9 per la precisione, è stato scritto nel 1901 quando Rachmaninoff aveva 28 anni. E il preludio in Sol minore, opera 23, numero 5, tra l'altro nella versione qui registrata dal pianista Boris Berezovsky. Basta con i preludi, veniamo a due composizioni, due sinfonie in particolare, perché appunto, come dicevamo, celebre come pianista, ma insomma poi Rachmaninoff si fa amare anche per il resto delle sue composizioni, comprese le sinfonie. E quindi qualche tempo dopo scrive ad esempio Le campane, The Bells, seconda di come, di che lingua volete scegliere, in russo non provate a chiedermelo perché non ve lo so dire, sinfonia corale. In particolare opera 35 catalogata, e Rachmaninoff iniziò a comporre questa sinfonia, appunto Le campane, durante la sua permanenza a Roma nel 1913, come gran parte, poi lo vedremo anche dopo, anche nel prossimo ascolto, insomma, come gran parte dei suoi contemporanei effettivamente amava molto l'Italia e amava girare, amava contemplarla e anche viverci, per cui appunto come tanti in quel momento, in quegli anni, si trovava a Roma e in Italia, quindi con la famiglia. E l'idea di creare quest'opera era nata in circostanze un po' strane, effettivamente, non tanto per appunto la sua permanenza in Italia o la contemplazione dei paesaggi, dei panorami e della cultura italiana, no, ci fu un episodio particolare, abbastanza bizzarro, che fu il fatto che Rachmaninoff ricevette a un certo punto, mentre era a Roma, appunto, una lettera anonima con la traduzione in russo di Constantin Belmont del poema di Edgar Allan Poe, The Bells, appunto. E questa lettera gli chiedeva a Rachmaninoff di mettere in musica questo poema. In realtà Rachmaninoff non era proprio noto come una personcina appunto accomodante, mondana o quant'altro, quindi fu abbastanza strano, soprattutto fu strano che Rachmaninoff effettivamente accettò. E solo dopo la morte di Rachmaninoff venne resa nota l'identità di questo mittente, del mittente della lettera, che era una donna, era Marika Danilova, e all'epoca giovane studentessa di violoncello al Conservatorio di Mosca. E quello che dice Rachmaninoff di questa composizione è: il suono delle campane si ode in tutte le città russe da me conosciute. Esse accompagnano ciascun russo dalla culla alla tomba e un compositore non può sottrarsi alla loro influenza. Per tutta la vita ho udito con piacere il loro scampanio delle melodie, dalle melodie e dai caratteri più diversi, dal gioioso tintinnio al mesto rintocco funebre. Ciascun russo porta in sé l'amore per le campane. Se mai mi è riuscito di far vibrare le campane di emozioni umane nelle mie opere, ciò è dovuto al fatto che ho trascorso gran parte della mia vita tra le vibrazioni degli scampanii a Mosca. Ed è proprio dedicata alle campane, appunto, oltre che a ovviamente l'opera di Edgar Allan Poe, ecco, già mi dimenticavo, e quindi è dedicata alle campane, e se vi ascoltate l'intera sinfonia potrete ascoltare questi vari tipi di campane, appunto un po' le accenna già in questo suo intervento descrittivo, perché è una sinfonia composta in quattro movimenti, come era d'uso, come era abbastanza standard, e ci sono vari tipi, in particolare quattro tipi di campane, e si finisce con la campana funebre, appunto. E noi ci ascoltiamo proprio giusto, anche perché ci avviciniamo ad Halloween, quindi ecco, sì, no, vabbè, non è vero, non me ne può fregare di meno, vabbè, in ogni caso ci avviciniamo ai morti, perché poi lo vedremo dopo, la composizione dopo proprio di questo parla nel dettaglio, e ci ascoltiamo l'ultimo movimento, il quarto, quindi un andamento lento, lugubre, allegro e andante. A questo punto basta, ve lo faccio ascoltare, sono 10 minuti circa e poi ci risentiamo qua sempre alla Fuga del Gatto. Thank you. Yeah. queste erano le campane, the bells appunto, ovvero la messa in musica del racconto di Edgar Allan Poe omonimo, fatto appunto, composto da Rachmaninoff, come dicevamo poc'anzi. Vi ricordo i social Wombat, prima vi ho ricordato la casella di posta, postawombat@insiberia.net, ma mi sento anche di ricordarvi il sito wombat.noblogs.org, da cui ci potete ascoltare in streaming e dove potete guardare tutte le informazioni che vi possono essere utili, il palinsesto e quant'altro. E poi anche vi ricordo la nostra frequenza sulle onde medie, onde mediocri a seconda di come le sentite, 13.59 la frequenza AM, mi raccomando, perché cioè, vi sfido a trovarla altrimenti su FM. Allora, siamo all'ultimo brano, che però è un po' lunghetto ed è un po' il brano principe di questa puntata, ovvero L'Isola dei Morti, un poema sinfonico, opera 29 di Rachmaninoff, appunto, ovviamente. E beh, in quel periodo il compositore era con la famiglia a Dresda, come dicevamo girava parecchio Rachmaninoff, era un po' un'anima in pena, anche se poi in realtà, a parte quando poi si trasferì definitivamente negli Stati Uniti, comunque tornava sempre in Russia e ne conservava una grande nostalgia. Ma insomma, in quel periodo era a Dresda, in Germania, e proprio qui compose L'Isola dei Morti, ispirato esattamente al quadro omonimo L'Isola dei Morti, ispirato da una versione in particolare di questo quadro, lo vedremo, il quadro di Arnold Böcklin, ovviamente, che beh, penso avrete un po' tutti in mente. Questo ci dice Rachmaninoff: la prima volta vidi a Dresda solo una copia in bianco e nero, che era la versione di questo quadro, aggiungo io, ne furono fatte diverse versioni, tra cui anche una in bianco e nero, appunto. E dicevamo, Rachmaninoff disse di aver visto, appunto, la prima volta vidi a Dresda solo una copia in bianco e nero del notevole quadro di Böcklin. La composizione massiccia ed il soggetto mistico di questo quadro provocarono in me una grande impressione ed essa determinò l'atmosfera del poema. In seguito vidi a Berlino il quadro originale. A colori non mi emozionò particolarmente. Se avessi visto per prima cosa l'originale, forse non avrei composto la mia Isola dei Morti. Il quadro mi piace di più in bianco e nero. E beh, oh, che gli si deve dire? Ognuno ha i suoi gusti. Allora, come tutti, beh, forse non tutti, ma insomma, se non lo sapete, da adesso lo saprete. L'Isola dei Morti di Böcklin fu, come dire, dipinta, ecco, a partire dal cimitero degli inglesi. Il cimitero degli inglesi a Firenze, piazzale Donatello, come lo volete chiamare. Allora, il cimitero degli inglesi fu edificato nel 1828 dalla chiesa evangelica riformata svizzera su quella che era una vera e propria montagnola poco fuori la Porta a Pinti, che per capirsi, per i fiorentini lo sapranno, comunque per capirsi era in fondo proprio a Borgo Pinti, a quello che è Borgo Pinti, quindi quartiere di Santa Croce, al limite del centro di Firenze. Ecco, lì fu edificato inizio, metà quasi 800, fu edificato questo cimitero per dare una sepoltura anche a chi non era cattolico né ebreo e che, come voleva l'uso di quegli anni, se moriva a Firenze doveva finire sepolto chissà dove, lontanissimo, perché appunto non c'era un cimitero non cattolico all'interno di Firenze. Nel 1870, Poggi, come ahimè noi poveri fiorentini, sappiamo bene, seguendo il progetto di ampliamento, la grande opera la potremmo chiamare adesso, questa geniale idea di distruzione totale di Firenze o di gran parte di Firenze per renderla più degna secondo i loro standard di essere capitale che poi peraltro durò veramente uno sputo. Ecco, insomma, poi oggi demolì le mura medievali della città e non solo, devastò veramente gran parte del centro storico di Firenze per costruire i famosi viali di circonvallazione, quelli che adesso sono i moderni viali di circonvallazione. E per fare questa opera, tra le tante cose, demolì anche questa porta, la porta a Pinti, lasciando il cimitero, boom, lì messo nel mezzo, nel bel mezzo del viale, che poi è un po' come si presenta anche adesso, con i dovuti cambiamenti dovuti al fatto che adesso c'è milioni di macchine, fondamentalmente assomiglia più a un'isola pedonale più che un'isola, uno spartitraffico, ecco, più che un'isola dei morti, ecco. Però gli cambiò anche un po' la forma Poggio, forse fu l'unica cosa buona che fece, perché la trasformò da poligonale a ovale e l'arricchì di alberi, soprattutto cipressi, perché ce l'ha in mente, insomma, se lo ricorderà, e insomma creò quella che poi è conosciuta come l'Isola dei Morti. Cimitero fra l'altro bellissimo, vi consiglio di andarlo a vedere, simile a tanti cimiteri acattolici o comunque non cattolici di quegli anni ottocenteschi, simile anche al cimitero cattolico di Roma, ma insomma molto molto bello. Ecco, e Böcklin, dicevamo, in quegli anni, come si diceva prima per Rachmaninoff e come si potrebbe dire per tantissimi altri, fu conquistato dall'Italia, dalla cultura classica, dalle suggestioni che gli arrivavano da questo paese, eccetera eccetera. Il Grand Tour si aprì anche per lui, come per tanti poeti, scrittori, artisti vari, musicisti e tutto. E ecco, e anche Böcklin arrivò a Firenze, dove soggiornò dal 1874 al 79. E tra l'altro sua figlia, che è morta precocemente, è sepolta proprio al cimitero degli inglesi. Lo stesso Böcklin disse, parlando dell'opera che poi dipinse, l'Isola dei Morti, disse: l'effetto deve essere un silenzio tale da spaventarsi sentendo bussare alla porta. E quindi sì, in effetti è un po' quello che si prova guardando l'Isola dei Morti, un vuoto, un senso di silenzio, di sospensione e poi necessariamente anche di angoscia, un certo mistero sicuramente che aleggia in tutto questo quadro. È un qualcosa di molto onirico che poi chiaramente rimanda non soltanto al cimitero, all'Isola dei Morti come un qualcosa di letterale, ma anche come un'oscurità anche umana e interna, un viaggio dentro un po' le oscurità e le ombre interne a ognuno di noi. Quindi qualcosa che evidentemente colpisce subito, tant'è che tantissimi furono i personaggi illustri e famosi colpiti da quest'opera, dai più improbabili e dai più diversi, perché Freud sicuramente, che ne fu colpitissimo e che se la mise nello studio, ma anche da lì, anche Giger, tra l'altro più modernamente, Rachmaninoff ovviamente, come diremo, insomma, ma poi anche Hitler, perché vuoi che non gli piacesse, e anche Lenin, tra l'altro, pare che nel suo esilio se ne mise una copia in casa. E insomma, un po' tutti, beh, d'altra parte incarnava molto bene lo spirito anche di quei tempi, di quel momento. E beh, appunto, tra tutti questi suoi fan abbiamo citato anche Rachmaninoff, che sicuramente, insomma, era enormemente impressionato da questo quadro, tant'è che, come abbiamo detto all'inizio, ne fece si fece ispirare da questo quadro per comporre un poema sinfonico. Questo poema sinfonico, come da tradizione descrittivista russa, descrive un po' esattamente quello che si vede nel quadro, o perlomeno quello che Rachmaninoff vede nel quadro. Lo sentirete, ci sono i movimenti musicali, sono movimenti dei remi, sono proprio i movimenti dei remi del traghettatore e riecheggia tra l'altro tutta una, diciamo che all'inizio emerge ma poi ricorre un po' in tutta l'opera, il Dies Irae, che poi era una sequenza liturgica medievale che molto importante e a cui palesemente Rachmaninoff si è ispirato o perlomeno ha voluto mettercela all'interno di quest'opera anche per ovvi motivi. C'è un tessuto sonoro molto scuro, molto orrorifico volendo e in realtà lo vedrete sia proprio per la melodia del Dies Irae che è costruita con piccoli intervalli, ma anche per tutto il resto e per come proprio costruisce l'intera opera Rachmaninoff. Ci sono un po' delle, quello basta sentirla, ci sono un po', oltre al movimento dei remi, ci sono proprio le onde, il movimento musicale va un po' a ondate, all'inizio parte molto piano, poi si gonfia, poi ritorna lento e insomma ci sono delle tonalità che oscillano e la tensione cresce, la tonalità si modula dalla minore al mi minore, insomma molto complessa e molto ben articolata. A un certo punto la barca, come proprio il dipinto mostra, arriva in prossimità dell'ingresso dell'isola e la figura in 5/8 musicale che sentirete per gran parte dell'opera momentaneamente cede il passo ad un tema più luminoso, dove arrivano i violini, il flauto, un tema più vitale, come proprio lo stesso Rachmaninoff l'ha definito, il tema della vita, che rappresenta un po' il desiderio dell'anima di volgersi indietro a quelle che sono state le gioie e i piaceri della vita terrena. E quindi proprio lo stesso Rachmaninoff in una lettera disse: deve creare un forte contrasto rispetto al resto della composizione, deve essere più veloce, questo movimento appunto più vitale, più nervoso e con una maggiore carica emotiva. Finora ha dominato la morte, ma d'ora in poi è la vita a dominare. Questo elemento ovviamente, che in realtà è completamente estraneo al soggetto del quadro, è Rachmaninoff che ce lo infila, questo elemento non dura molto, non poteva non essere così, e perché da questo viaggio non si torna indietro, quindi oltre che un fugace sguardo all'indietro, poi però non si va, bisogna comunque andare avanti e dal cimitero e dal appunto il viaggio verso l'isola dei morti non si torna indietro, si entra e non si esce. Quindi il Dies Irae ritorna, il motivo di cui dicevamo prima, torna ad avere il sopravvento su quel tema che invece era arrivato vitale e insomma si ritorna nel tema vero e proprio dell'isola dei morti. Una volta depositata la bara nell'isola, il traghettatore riprende a remare sul mare dell'oblio, sempre in 5/8, e il poema si conclude con la stessa atmosfera di inesorabile tristezza che aveva all'inizio. Questo è un po' il significato e anche la bellezza molto misteriosa di questo poema sinfonico. La durata è 20 minuti circa, quindi insomma non parlo ulteriormente perché lascio completamente spazio alla musica. Gli unici dettagli più tecnici che mi sento di dovervi dare sono degli esecutori di questa versione che ci andiamo ad ascoltare. Il direttore è Sir Andrew Davis, che dirige la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Quindi L'Isola dei Morti, poema sinfonico, opera 29 di Rachmaninoff. Con questo vi saluto anche e vi do appuntamento non a domenica prossima, perché la Foga del Gatto si prende una piccola vacanza, ma torneremo la domenica successiva ancora e con meraviglie e ancora meraviglie. Ciao ciao!